Dall'accumulazione del capitale di Rosa Luxemburg, capitolo 27, la lotta contro l'economia naturale. In tutte le formazioni ad economia naturale, si tratti di comunità primitive con proprietà collettiva del suolo, di rapporti servili feudali o simili, l'elemento dominante nell'economia è la produzione per la soddisfazione dei bisogni interni. Non vi è dunque, o è ridotta, una richiesta di merci di provenienza esterna, né esiste di regola una eccedenza di prodotti, o almeno un urgente bisogno di smerciare prodotti eccedenti. Ma, cosa ancora più importante, tutte le forme di produzione ad economia naturale poggiano su tipi più o meno simili di regolamentazione delle forme produttive e delle forze lavoro. La comunità contadina a tipo comunista o il feudo si basano nella loro organizzazione economica sul vincolo del principale mezzo di produzione, il suolo, e delle forze lavoro, in virtù del diritto e della consuetudine. L'economia naturale oppone dunque alle esigenze del capitale, sotto tutti gli aspetti, rigide barriere. Perciò il capitalismo conduce sempre e ovunque una preventiva campagna di annientamento contro l'economia naturale, in qualsivoglia forma storica gli si presenti, contro l'economia schiavista, contro il feudalismo, contro il comunismo primitivo, contro l'economia contadina patriarcale. I mezzi fondamentali di questa lotta, a volte paralleli, a volte successivi e integrantisi l'un l'altro, sono la violenza politica, rivoluzioni e guerre, la pressione fiscale, il basso prezzo delle merci. Se nella lotta contro il feudalismo in Europa la violenza si manifestò in forma rivoluzionaria, le rivoluzioni borghesi dei secoli XVII, XVIII e XIX, in ultima analisi vi appartengono, nei paesi extraeuropei la violenza prende, nella lotta contro forme sociali più primitive, il carattere della politica coloniale. Il sistema fiscale ivi praticato, il commercio con primitive comunità agricole, costituiscono una miscela in cui la violenza politica e i fattori economici si intrecciano e si completano a vicenda. Gli scopi economici perseguiti dal capitalismo nella lotta contro le società ad economia naturale sono impadronirsi direttamente di importanti sorgenti forze produttive, come il suolo, le foreste, i minerali, le pietre preziose, i prodotti della flora esotica, come il caucciù, per esempio. Liberare forze lavoro e costringerle a lavorare per il capitalismo. Introdurre l'economia mercantile. Separare agricoltura e artigianato. Nell'accumulazione primitiva, ai primi albori storici del capitalismo in Europa, l'erosione dell'economia contadina costituì in Inghilterra e sul continente il mezzo più potente per la trasformazione di mezzi di produzione e di forze lavoro in capitale. Oggi lo stesso obiettivo è perseguito, con mezzi ben altrimenti poderosi, nella politica coloniale. È un'illusione sperare che il capitalismo si accontenti dei soli mezzi di produzione che può far sorgere dallo scambio delle merci. La difficoltà per il capitale sta, sotto questo aspetto, già nel fatto che su enormi estensioni della superficie terrestre sfruttabile, le forze produttive si trovano in possesso di formazioni sociali non orientate verso lo scambio o non disposte a vendere i più importanti mezzi di produzione che al capitale interessano, perché vi si oppongono sia le forme di proprietà che l'intera struttura sociale. È il caso in primo luogo della terra, con tutte le ricchezze minerarie del sottosuolo, coi campi, le foreste, le acque in superficie, col patrimonio zootecnico dei primitivi popoli allevatori. Affidarsi al processo di disfacimento interno graduale e secolare di queste economie naturali, aspettare che a suo termine esso porti all'alienazione dei principali mezzi di produzione per la via del commercio, sarebbe per il capitale rinunciare alle forze produttive dei rispettivi territori. Perciò il capitale persegue, nei confronti dei popoli coloniali, l'appropriazione violenta dei principali mezzi di produzione. Ma poiché le comunità sociali primitive degli indigeni sono a un tempo il più forte baluardo della società e la base materiale della sua esistenza, premessa di questa appropriazione è un'opera sistematica e pianificata di distruzione e annientamento delle comunità sociali non capitalistiche, in cui il capitale si imbatte nel corso della sua espansione. Ogni nuova espansione coloniale è, naturalmente, accompagnata da questa tenace lotta del capitale contro i rapporti sociali ed economici in cui gli indigeni vivono e dalla rapina dei loro mezzi di produzione e delle loro forze lavoro. La speranza di poter orientare il capitalismo verso la pura concorrenza pacifica, cioè verso il normale scambio delle merci, così come si effettua fra paesi a produzione capitalistica, quale unica base della sua accumulazione, si fonda sull'illusione teorica che l'accumulazione capitalistica possa fare a meno delle forze produttive e della domanda delle strutture sociali primitive e affidarsi al lento processo di disgregazione interna dell'economia naturale. In realtà, l'accumulazione capitalistica non solo non può, nel suo espandersi a sbalzi, contare sul semplice incremento naturale della popolazione lavoratrice, ma non può neppure attendere la lenta decomposizione naturale delle forme non capitalistiche e il loro pacifico trapasso all'economia mercantile. Il capitale non conosce altra soluzione al problema che la violenza, metodo costante dell'accumulazione del capitale come processo storico, non solo al suo primo nascere, ma ancora oggi. Per le società primitive, trattandosi in tal caso di una questione di vita o di morte, non resta altro comportamento che la resistenza a oltranza, la lotta fino all'esaurimento completo o fino allo sfacelo. Di qui l'occupazione militare permanente delle colonie, le rivolte delle popolazioni indigene, le spedizioni coloniali per la loro repressione, come fenomeni permanenti all'ordine del giorno del colonialismo. Il metodo violento è qui conseguenza diretta dell'urto fra il capitalismo e le formazioni ad economia naturale, che oppongono una barriera alla sua accumulazione. Per sottrarre agli indigeni i mezzi di produzione e le forze lavoro, per trasformare quelle comunità in acquirenti di merci, il capitale tende con uno sforzo cosciente e sistematico ad annientarle come formazioni sociali autonome. Questo metodo è il più efficace dal punto di vista del capitale perché è nello stesso tempo il più rapido e il più redditizio. Infatti, esso ha per contropartita il crescente militarismo, della cui importanza ai fini dell'accumulazione parleremo più avanti. Classici esempi dell'impiego di questi metodi da parte del capitale nelle colonie sono la politica inglese in India e i francesi in Algeria. L'antichissima organizzazione economica degli indiani, la comunità di villaggio di tipo comunista, si era conservata per millenni in diverse forme e aveva compiuto una lunga parabola storica interna, nonostante le tempeste politiche. Nel VI secolo a.C. i persiani fecero breccia nel territorio degli Indù e sottomisero una parte del paese. 2 secoli dopo apparvero i Greci, che lasciarono dietro di sé propaggini di una civiltà straniera, le colonie alessandrine. Seguì un'invasione dei selvaggi sciiti, poi, per secoli, l'India fu dominata dagli arabi, finché dalle alture dell'Iran scesero gli afghani, anch'essi cacciati più tardi dal dilagare tempestoso delle orde tartare della Transossania. Terrore e morte segnarono il cammino percorso dai mongoli, interi villaggi furono rasi al suolo e i pacifici campi dai delicati steli di riso si tinsero di porpora per i fiumi di sangue versato. Ma la comunità di villaggio indiana sopravvisse a tutte queste vicende e i diversi conquistatori maomettani succedutisi nel paese finirono per conservare immutate la vita sociale interna della massa contadina e la sua struttura tradizionale. Si limitarono a lasciare nelle province i loro governatori, incaricati di sorvegliarne l'organizzazione militare e di curare la riscossione delle imposte. Tutti i conquistatori procedettero all'assoggettamento e sfruttamento del paese. Nessuno ebbe interesse a sottrarre al popolo le sue forze produttive e ad annientarne l'organizzazione sociale. Nel regno del Gran Mogol, il contadino fu costretto a versare un tributo annuo in natura alla potenza dominante, ma poté vivere indisturbato nel suo villaggio e, come i suoi antenati, coltivare il riso sulla sua sciolgura. Poi vennero gli inglesi, e l'alito pestifero della civiltà capitalistica compì in breve tempo ciò che millenni non avevano saputo fare, ciò che la spada dei nogai non era riuscita a portare a termine, la rovina dell'intera organizzazione sociale popolare. Scopo del capitalismo inglese era, in definitiva, la presa di possesso violenta della base fondamentale di vita delle comunità indiane, la terra. A questo fine servì l'espediente, caro da secoli ai colonizzatori europei, di dichiarare tutta la terra delle colonie proprietà del sovrano politico. Gli inglesi donarono l'intera India in possesso privato al Gran Mogol e ai suoi luogotenenti, per poi ereditarla come loro legittimi successori. I più eminenti economisti giustificarono questa finzione con zelanti argomenti scientifici e soprattutto col famoso sillogismo: è necessario ammettere che la proprietà fondiaria appartenga in India al sovrano, perché se ammettessimo che non lui fosse il proprietario, non saremmo in grado di dire chi ora sia. Conseguentemente, gli inglesi, già nel 1793, trasformarono in proprietari fondiari gli zemindari, cioè i preesistenti esattori di imposte maomettani e i sovrintendenti ai mercati dei loro distretti, per crearsi in tal modo un solido appoggio nel paese per le campagne contro le masse contadine. Nello stesso modo agirono nelle successive conquiste nella provincia di Agra, Aud, nelle province centrali. Conseguenza? Ne fu una serie di furibonde rivolte contadine con frequenti espropriazioni degli esattori di imposte e nel disordine e nell'anarchia generali che ne seguirono, i capitalisti inglesi trovarono modo di impossessarsi di una parte notevole delle terre. Inoltre, il carico fiscale fu elevato con una tale spregiudicatezza da divorare l'intero frutto del lavoro delle popolazioni native. Si giunse al punto che, secondo la testimonianza ufficiale delle autorità fiscali inglesi nel 1854, nei distretti di Delhi e di Allahabad i contadini ritennero più vantaggioso pignorare e affittare i propri appezzamenti di terreno contro le somme dovute a titolo d'imposta. Sulla base di questo sistema fiscale, l'usuraio penetrò nel villaggio indiano e vi si radicò come un cancro divorante dall'interno l'organizzazione sociale. Per accelerare questo processo, gli inglesi introdussero una legge che calpestava inesorabilmente tutte le tradizioni e i concetti giuridici delle comunità di villaggio, la vendita forzosa dei campi comunali a copertura degli arretrati nel pagamento delle imposte. Le tribù cercarono invano di difendersi contro questo attentato mediante il diritto di prima compera dell'intero distretto e dei distretti affini. Ma il processo di erosione era ormai in pieno sviluppo. Vendite forzose, uscita di singoli dalle comunità, indebitamenti, espropriazioni erano all'ordine del giorno. Come fu sempre loro tattica, nelle colonie gli inglesi cercarono di dare alla loro politica di forza, cui si dovevano la sopravvenuta incertezza nei rapporti di proprietà del suolo e lo sfacelo dell'economia contadina degli indù, l'apparenza di un'azione svolta negli interessi delle classi agricole e a loro protezione dai tiranni e sfruttatori locali, e come tale quindi necessaria. In realtà fu l'Inghilterra a creare artificialmente, a spese dei secolari diritti di proprietà delle comunità contadine, un'aristocrazia terriera per poi, dietro le quinte, proteggere i contadini contro questi oppressori e trasferire in mani inglesi la terra illegalmente usurpata. Così, in breve tempo, nacque in India la grande proprietà fondiaria. Mentre su enormi estensioni i contadini erano trasformati in una massa impoverita e proletarizzata di piccoli affittuari con canoni di affitto a breve termine. Infine, il metodo specifico della colonizzazione capitalistica si espresse in un fatto decisivo. Gli inglesi furono i primi conquistatori dell'India a mostrare una completa indifferenza per le opere pubbliche di carattere economico. Arabi, afghani, mongoli intrapresero o favorirono in India gigantesche opere di canalizzazione, ricoprirono di una rete stradale il paese, gettarono ponti sui fiumi, fecero scavare pozzi e fontanili. Il capostipite della dinastia mongola, Timur, o Tamerlano, si preoccupò della coltivazione del suolo, dell'irrigazione, della sicurezza, delle vie di comunicazione, della protezione dei viaggiatori. I primitivi Raja indiani, i conquistatori afghani e mongoli, a volte crudeli verso gli individui, contrassegnarono tuttavia il loro dominio con le mirabili costruzioni che oggi si incontrano a ogni piè sospinto e che sembrano opera di una razza di giganti. La Compagnia inglese delle Indie orientali, invece, che spadroneggiò in India fino al 1858, non ha aperto una sorgente, non ha scavato un pozzo, non ha costruito un canale, non ha eretto un ponte a vantaggio degli indiani. Un altro testimone, l'inglese James Wilson, dice: «Nella provincia di Madras si rimane involontariamente colpiti dalle grandiose canalizzazioni secolari, le cui tracce si sono conservate fino ai nostri tempi. Sistemi di dighe che regolavano i fiumi permisero la creazione di interi laghi dai quali l'acqua veniva trasportata mediante canali per un raggio di 60-70 miglia. Su certi fiumi vi erano da 30 a 40 dighe. L'acqua piovana che scendeva dai monti fu raccolta a questo scopo in stagni artificiali della circonferenza di 15 a 20 miglia. Queste gigantesche costruzioni furono eseguite quasi tutte prima del 1750. Nell'epoca delle guerre della Compagnia delle Indie coi sovrani mongoli, e dobbiamo aggiungere per tutto il periodo della nostra dominazione in India, cioè inglese, sono cadute tutte in rovina. Era più che naturale. Per il capitale inglese non si trattava di mantenere in vita le comunità indiane di villaggio o di aiutarle economicamente, ma al contrario di distruggerle, di strappar loro le forze produttive. La fame divorante dell'accumulazione, che vive per sua essenza intrinseca delle congiunture e non è in grado di pensare al domani, non può apprezzare il valore delle grandi opere economiche del passato da un punto di vista che guardi più in là dell'immediato presente. In Egitto, quando si trattò di costruire ciclopiche dighe lungo il Nilo per gli scopi del capitale, gli ingegneri inglesi si ruppero la testa per scoprire le tracce delle stesse antiche canalizzazioni che, con stupida noncuranza da predoni barbarici, avevano lasciato cadere in rovina nelle loro province indiane. Del resto, gli inglesi impararono ad ammirare l'opera preziosa delle loro stesse mani solo quando la terribile carestia, che nel solo distretto di Orissa aveva falciato in un anno 1 milione di vite umane, obbligò il Parlamento britannico ad aprire nel 1867 un'inchiesta sulle cause della tragica situazione creatasi in India. Ora il governo inglese cerca di salvare il contadino per via amministrativa dalle grinfie degli usurai. Il Punjab Alienation Act del 1900 vieta l'alienazione forzata o l'imposizione delle terre di contadini a favore di appartenenti ad altre caste che non siano le agricole, e in casi singoli fa dipendere le eccezioni a questa regola dal consenso dell'esattore delle imposte. Dopo aver spezzato le fasce protettive delle antiche comunità sociali degli Hindù e aver alimentato un'usura per cui un interesse del 15% è normale, gli inglesi mettono il contadino indiano rovinato e immiserito sotto la tutela del fisco e dei suoi funzionari, cioè sotto la protezione delle sue dirette sanguisughe. Accanto al martirio dell'India britannica merita un posto d'onore nell'economia coloniale capitalistica la storia della politica francese in Algeria. Quando i francesi conquistarono l'Algeria, nella massa della popolazione arabo-kabila dominavano le antichissime istituzioni sociali ed economiche che, nonostante la lunga e movimentata storia politica del paese, fino al secolo XIX e in parte anche oggi, erano tuttavia riuscite a salvarsi. Se nelle città fra i mori e gli ebrei, fra commercianti, artigiani e usurai, dominava la proprietà privata e nelle campagne già grandi estensioni di terra erano state usurpate come demanio statale dai vassalli turchi, tuttavia quasi la metà della terra coltivata continuava ad appartenere in proprietà indivisa alle tribù arabo-kabile e qui vigevano ancora secolari patriarcali costumi. La stessa vita nomade, apparentemente instabile e priva di regole, ma in realtà strettamente organizzata ed uniforme, conduceva ancora, nel secolo XIX, come in tempi antichissimi, molte tribù arabe con uomini, donne e bimbi, cavalli e tende, d'estate sulla fascia costiera del Tell, sventagliata dalle fresche brezze marine, ed inverno nel calore protettivo del deserto. Ogni tribù ed ogni stirpe aveva fissate le direttrici di marcia delle sue migrazioni e le sue stazioni invernali ed estive con gli accampamenti temporanei. Gli arabi dediti alla coltivazione del suolo possedevano per lo più in proprietà collettiva delle stirpi la terra. Altrettanto patriarcale e organizzata secondo norme tradizionali era la vita delle grandi famiglie kabile sotto la direzione del loro capo elettivo. L'economia domestica di questi grandi complessi familiari era diretta e in forma indivisa dal più vecchio membro femminile o sulla base di una scelta fatta dalla famiglia o in ordine gerarchico dalle donne. La grande famiglia Kabila, che in questa sua organizzazione ai margini del deserto africano offriva un curioso parallelo della celebre Zadruga degli slavi del sud, era proprietaria non soltanto del suolo, ma anche di tutti gli attrezzi, le armi, il denaro necessari all'esercizio del mestiere di tutti i suoi membri. Ad ogni uomo apparteneva in proprietà privata solo un vestito, a ogni donna soltanto il corredo e gli ornamenti ricevuti in dono dallo sposo. Ma tutte le vesti preziose e i gioielli erano proprietà indivisa della famiglia e potevano essere usati dai singoli solo col consenso di tutti. Se la famiglia non era troppo numerosa, prendeva i pasti a una tavola comune e tutte le donne cucinavano a turno, mentre le vecchie provvedevano alla distribuzione del cibo. Se la cerchia delle persone era troppo vasta, i mezzi di sussistenza venivano divisi ogni mese dall'autorità preposta alla comunità, secondo criteri di rigorosa uguaglianza, e le singole famiglie, dopo averli ricevuti allo stato grezzo, provvedevano a cucinarli ciascuna per conto proprio. Stretti vincoli di solidarietà, mutuo soccorso e uguaglianza rendevano compatte queste comunità. E i patriarchi solevano, sul letto di morte, affidare ai figli come ultimo retaggio l'osservanza rigorosa del legame familiare. Già il dominio turco stabilitosi in Algeria nel secolo XVI aveva inferto duri colpi a questi rapporti sociali. Fu però una leggenda creata più tardi dai francesi che i turchi avessero confiscato l'intero suolo a favore del fisco. Questa fantasia, che poteva venire in mente solo ad europei, è contraddetta dall'intera base economica dell'Islam e dal modo di vita dei suoi fedeli. Al contrario, i rapporti di proprietà della terra, delle comunità di villaggio e delle grandi famiglie furono lasciati, in generale, intatti e solo gran parte dei terreni incolti furono sottratti alle tribù come demanio dello Stato e trasformati, sotto i luogotenenti turchi, in beyliks, in parte amministrati direttamente dallo Stato con forze lavoro indigene, in parte dati in affitto contro interesse o contro prestazioni in natura. Parallelamente i turchi sfruttarono ogni sommossa delle stirpi soggiogate e ogni disordine del paese per ingrossare i possedimenti demaniali mediante vaste confische di terreno e fondarvi colonie militari o mettere alla pubblica asta i beni confiscati e farli così passare in mano a usurai turchi o altri. Per sfuggire alle confische e al peso delle imposte, molti contadini, esattamente come nella Germania medievale, si posero sotto la protezione della Chiesa, che divenne in tal modo proprietaria di notevoli appezzamenti. Infine, pur dopo queste mutevoli vicende, al tempo dell'occupazione francese i rapporti di proprietà presentavano in Algeria il seguente quadro. I demani abbracciavano 1,5 milioni di ettari. 3 milioni di ettari di terra incolta erano sottoposti allo Stato in qualità di proprietà comune degli ortodossi. La proprietà privata abbracciava altri 3 milioni di ettari in possesso fin dai tempi romani dei berberi e 1,5 milioni passati a privati sotto il dominio turco. Per contro, rimanevano in proprietà comune indivisa 5 milioni di ettari. Quanto a Sahara, circa 3 milioni di ettari di terra coltivabile nella zona delle oasi si trovavano parte in proprietà indivisa delle grandi famiglie, parte in proprietà di privati. I rimanenti 23 milioni di ettari rappresentavano deserto. I francesi, dopo aver trasformato l'Algeria in colonia, cominciarono con gran chiasso la loro opera civilizzatrice. Non era forse stata l'Algeria, svincolatasi sui primi del secolo XVIII dalla sovranità turca, o un nido di pirati infestanti il Mediterraneo ed esercitanti il commercio degli schiavi coi cristiani? Contro queste nefandezze dei maomettani avevano dichiarato guerra senza quartiere la Spagna e gli Stati Uniti del Nord, che pure a quei tempi non stavano, in fatto di commercio di schiavi, indietro a nessuno. E anche durante la rivoluzione francese era stata indetta una crociata contro l'anarchia algerina. La sottomissione dell'Algeria, ad opera della Francia, fu dunque condotta sotto la bandiera della lotta contro lo schiavismo e per l'introduzione della civiltà e dell'ordine. La prassi concreta doveva ben presto mostrare che cosa si nascondesse dietro tutto ciò. Nei 40 anni seguiti alla sottomissione dell'Algeria, nessuno Stato europeo ha, come è noto, subito più frequenti trasformazioni nel regime politico che la Francia. Alla Restaurazione erano seguite la Rivoluzione di Luglio e la Monarchia Borghese, a questa la Rivoluzione di Febbraio, la Seconda Repubblica e il Secondo Impero, e infine la debacle del 1870 e la Terza Repubblica. Nobiltà, alta finanza, piccola borghesia, l'ampio strato della borghesia media si erano alternati al potere, ma in tutto questo turbine di avvenimenti un polo stabile continuò ad essere la politica francese in Algeria, volta dal principio alla fine a un solo obiettivo e attestante nel modo più luminoso, proprio ai margini del deserto africano, che tutte le vicende dello Stato francese nel corso del secolo XIX avevano fatto perno intorno al medesimo fondamentale interesse, il dominio della borghesia capitalistica e delle sue forme di proprietà. la distribuzione programmata e deliberata della proprietà comune e la sua divisione furono il polo fisso verso il quale la bussola della politica coloniale francese si orientò durante mezzo secolo ad onta di tutte le tempeste nella vita interna dello Stato, per il seguente duplice interesse. L'annientamento della proprietà comune della terra doveva prima di tutto frantumare la potenza delle stirpi arabe come organismi sociali, e perciò stroncarne la rabbiosa resistenza alla dominazione francese, tradottasi, nonostante la strapotenza militare dell'avversario, in incessanti rivolte e seguita da uno stato permanente di guerra nella colonia. Inoltre, la rovina della proprietà comune era una condizione preliminare per sfruttare economicamente il territorio conquistato, cioè strappare agli arabi il suolo posseduto da un millennio e trasferirlo nelle mani di capitalisti francesi. A entrambi gli scopi servì anzitutto la finzione, a noi già nota, secondo la quale l'intera terra sarebbe stata, in base alla legge musulmana, proprietà del sovrano di fatto. Esattamente come gli inglesi in India, i governatori di Luigi Filippo in Algeria dichiararono impossibile l'esistenza di una proprietà comune di intere stirpi, e in base a questa finzione, la maggior parte degli appezzamenti, soprattutto i pascoli, prati e boschi, furono dichiarati proprietà statale e usati a scopo di colonizzazione. Si venne così a un sistema grazie al quale coloni francesi venivano stabiliti in mezzo a fondi di stirpi indigene, ma le tribù dovevano essere concentrate su estensioni minime. Lungi dal portare alla colonizzazione, questo sistema di insediamento non fece che alimentare la speculazione e l'usura in grande stile. Nella maggior parte dei casi gli arabi riuscirono a riavere, pagandole, le terre loro sottratte, indebitandosi però fin sopra i capelli. Nello stesso senso agì la pressione fiscale. Sotto la gragnuola di tutte queste leggi, ordinanze e misure, un disordine indescrivibile si impadronì dei rapporti di proprietà del paese. Sfruttando la febbrile speculazione sui terreni e nella speranza di riavere quanto prima le loro terre, molti indigeni vendettero i loro appezzamenti a francesi, cedendo spesso a due o tre compratori lo stesso lotto, che poi risultava non proprietà privata loro, ma proprietà comune inalienabile di tribù. Ne seguì una catena senza fine di processi, in cui i giudici francesi appoggiarono in linea di principio tutte le rivendicazioni degli acquirenti. L'incertezza nei rapporti di proprietà, la speculazione, l'usura, l'anarchia divennero generali, ma il piano del governo francese di crearsi un solido appoggio in una massa di coloni francesi installati in mezzo alla popolazione araba fallì miseramente. Perciò, sotto il Secondo Impero, la politica francese cambiò rotta. Il governo, che dopo 30 anni di testarda negazione della proprietà collettiva ha dovuto subire la lezione delle cose, riconosce infine ufficialmente l'esistenza della proprietà indivisa delle tribù, ma solo per proclamare nello stesso tempo la necessità della sua forzata divisione. La creazione delle proprietà private, l'installazione di coloni europei nel cuore delle tribù arabe, sono questi i mezzi più sicuri per affrettare il processo di decomposizione delle federazioni di stirpi indigene. Lo scopo della politica francese, la creazione della proprietà individuale e il suo trapasso in proprietà di francesi, però, era ancora una volta mancato. Solo la Terza Repubblica, il regime aperto della borghesia, doveva trovare il coraggio e il cinismo di abbandonare le vie traverse e affrontare la questione dal punto opposto, senza i passi preliminari e guardinghi del Secondo Impero. La divisione diretta delle terre di tutte le 700 tribù arabe in lotti a proprietà privata, l'introduzione par force della proprietà privata nel più breve tempo, questo lo scopo dichiarato della legge che l'Assemblea nazionale sfornò nel 1873. Il pretesto fu offerto dalle condizioni disperate della colonia. Esattamente come la grande carestia del 1866 in India aveva messo drasticamente di fronte agli occhi dell'opinione pubblica inglese i brillanti risultati della politica coloniale e provocato la nomina di una commissione parlamentare d'inchiesta, così, verso il 1870, l'Europa fu allarmata dal grido di dolore che saliva dall'Algeria, dove una spaventosa carestia e una mortalità elevatissima fra gli arabi testimoniavano di un quarantennio di dominazione francese. Per stabilirne le cause, fu nominata una commissione, il cui unanime parere fu che una sola ancora di salvezza rimaneva agli arabi, ovviamente la proprietà privata. Solo allora ogni arabo avrebbe potuto vendere il suo pezzo di terra o accendervi un'ipoteca e in tal modo difendersi contro la miseria. Così, per soccorrere gli arabi in una situazione di emergenza determinata dalle spoliazioni in parte già compiute dai francesi sul suolo algerino, dal peso delle imposte e dall'indebitamento da essa provocato, si dichiarava unica medicina il completo abbandono degli arabi in balia degli usurai. Questa beffa fu sottoposta con perfetta serietà all'assemblea e con altrettanta serietà approvata dal degno consesso. La spudoratezza dei vincitori della Comune parigina celebrava le sue orgie trionfali. Due argomenti servirono soprattutto nell'Assemblea nazionale a varare la nuova legge. Gli stessi arabi ripeterono su tutti i toni i difensori del progetto, desideravano la sollecita introduzione della proprietà privata. Ed era vero, la desideravano gli speculatori e gli usurai locali, urgentemente interessati a liberare le loro vittime dalla fascia protettiva delle tribù e dalla loro solidarietà. Infatti, vigendo in Algeria il diritto musulmano, il pignoramento della terra trovava un ostacolo insormontabile nell'inalienabilità dei beni familiari e gentilizi. Solo la legge del 1863 aveva aperto una piccola breccia in questi tradizionali rapporti. Si trattava ora di rimuovere ogni ostacolo per lasciar mano libera all'usuraio. Il secondo argomento era di natura scientifica e lo si attinse allo stesso arsenale ideologico dal quale il degno James Mill aveva derivato la sua incomprensione per i rapporti di proprietà dell'India, l'economia politica classica inglese. La proprietà privata è la necessaria premessa di una più intensiva e razionale lavorazione del suolo, l'unico mezzo per eliminare la carestia. Essendo chiaro che nessuno vorrà mai investire capitale o lavoro intensivo in un terreno che non gli appartiene e i cui frutti non saranno goduti esclusivamente da lui, declamarono con enfasi i discepoli scientificamente ferrati di Smith e di Ricardo. Ben altro linguaggio parlavano i fatti. Essi dicevano che gli speculatori francesi sfruttavano la proprietà privata creata in Algeria per ben altro scopo che per una coltivazione più intensiva e tecnicamente perfezionata del suolo. Dei 400.000 ettari di terra appartenenti nel 1873 ai francesi, 120.000 si trovavano in mano di due società capitalistiche, la Compagnia Algerina e la Sétif, che lungi dal coltivare se stessi i loro fondi, li riaffittavano a indigeni, i quali a loro volta li lavoravano coi metodi tradizionali. Un quarto dei rimanenti proprietari francesi si occupavano altrettanto poco di agricoltura. Né i rapporti sociali capitalistici, né l'investimento dei capitali nella terra e il suo sfruttamento intensivo si potevano creare artificiosamente con un colpo di bacchetta. Erano cose che esistevano solo nella fantasia assetata di profitti degli speculatori francesi e nelle nebulose dottrine degli ideologhi scientifici dell'economia politica. Spogliata dei suoi pretesti e della sua retorica, la legge del 1873 non tradiva se non il desiderio nudo e crudo di togliere agli arabi la loro base di esistenza, la terra. E ad onta dell'inconsistenza degli argomenti usati per giustificarla, ad onta dell'evidente falsità delle ragioni addotte, la legge, che doveva dare il colpo di grazia al popolo algerino e al suo benessere materiale, fu approvata alla quasi unanimità il 26 luglio 1873. Ma il fallimento del colpo di forza non doveva farsi attendere a lungo. La politica della Terza Repubblica naufragò contro la difficoltà di introdurre di colpo la proprietà privata borghese nelle grandi comunità familiari a base comunista, cioè contro lo stesso scoglio di fronte al quale s'era arenata la politica del Secondo Impero. Il fiasco dell'introduzione forzata della proprietà privata della terra in Algeria condusse più tardi a un nuovo esperimento. Ma anche la nuova legge aprì la porta alla spoliazione ed erosione dei possedimenti delle tribù e dei beni terrieri delle famiglie kabile da parte di capitalisti francesi e indigeni. La vivisezione praticata per 80 anni sull'Algeria ha incontrato negli ultimi tempi una resistenza tanto più debole, in quanto la sottomissione della Tunisia prima e del Marocco poi ha chiuso sempre più nella morsa del capitale francese gli arabi, sacrificandoli senza possibilità di salvezza alle sue brame. Il più recente portato della dominazione francese in Algeria è l'emigrazione in massa degli arabi verso la Turchia asiatica.